Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Ma buongiorno, buongiorno, buon Natale! Oggi è davvero una puntata speciale e la voglio aprire così. Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari. Tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca ci siamo tutti, tutti. Erano le parole di Papa Francesco, le ha pronunciate a marzo, di sicura servono proprio oggi a scaldarci il cuore, oggi che è questa giornata speciale, questo Natale speciale. Vogliamo attraversare questa giornata non rimanendo immersi nella paura, ma tenendoci per mano, alzando, come si dice, lo sguardo, pensando anche a ciò che è davvero essenziale in questo giorno di festa. E in questo giorno di festa, come da tradizione, non può mancare il nostro amico Alberto Pellai. Ciao Alberto! Ciao Nicoletta, buon Natale a tutti! Anche questo Natale lo festeggiamo insieme, un Natale diverso però da tutti gli altri. La festa è la stessa di sempre, ma il nostro modo di viverla è profondamente cambiato. Quali sono, Alberto, gli aspetti che non solo come uomo e padre, ma anche come psicoterapeuta, secondo te, occorre mettere al centro di questo giorno? Ma direi proprio il messaggio di speranza, cioè il fatto che una nascita è sempre una celebrazione della vita, e in realtà la nascita del Natale avviene dopo una serie davvero infinita di contrattempi, di avversità, di non accettazioni di questa coppia che cercava, no? Un luogo dove poter essere accolta, e non c'era, e quindi alla fine è un continuo fare di necessità virtù per far avvenire però una cosa che poi cambia un po' il destino del mondo, anzi lo cambia radicalmente. Direi che è proprio l'attitudine e l'atteggiamento con cui ci avviciniamo a un evento così importante che oggi dobbiamo davvero coltivare dentro di noi. Tra l'altro oggi è una giornata dove cambiano tutti i copioni dei giorni delle feste per via delle tante restrizioni che abbiamo, e quindi dobbiamo davvero, no, fare di necessità virtù e non entrare in un atteggiamento, in un mood che ci fa sentire solo tristi, certo, e depressi. Dobbiamo davvero tenere alto lo sguardo. E con noi oggi c'è anche Don Marco Pozza. Don Marco! Buon Natale a tutti voi! Buon Natale! Un sacerdote amatissimo che accompagna tutte le settimane gli spettatori nella seguitissima, pensi quant'è, se dico Don Pozza, che per lei, a sua immagine, su Rai 1. Don Pozza, questo Natale anche per voi sacerdoti ha delle particolarità mai viste prima, immagino. Da che cosa vi sentite sfidati? Si può davvero far sentire ai fedeli la gioia di questa festa al termine di un anno così sfidante, pieno di fatica, di dolore? Ma è bellissimo questo Natale per noi sacerdoti, per me soprattutto, che vivo il mio sacerdozio all'interno di un carcere, il carcere di Padova, perché finalmente abbiamo la possibilità di far toccare con mano a tutta la gente che il Vangelo che noi leggiamo la notte di Natale è il Vangelo più triste che esista. Non c'è la poesia che ci abbiamo attaccato addosso in tutti questi anni di romanticismo, le stelle cadenti, le cornamuse, le fisarmoniche. Il Vangelo di Natale dice una cosa bellissima, dice che non c'era posto per Cristo dentro l'albergo. È una famiglia, è un Dio che nasce sopra le rovine della storia, è un Dio che tutti stanno aspettando, eppure nessuno è disponibile a fare un po' di spazio per farlo nascere, ed è un Dio che nasce dentro di una stalla. E io penso che per noi quest'anno in carcere finalmente sarà il Natale più vero, perché anche noi nell'immaginario collettivo viviamo dentro ad una stalla, la stalla della società, il sottoscala dove vengono lanciati dentro, no, le persone che nella vita hanno sbagliato. E a me piace pensare, e commuove pensare, che la messa di quest'anno, a causa anche del Covid che maledettamente è entrato dentro al nostro carcere, la messa di quest'anno probabilmente la celebrerò con tre persone, la messa in una cella spoglia, senza musica e senza niente, eppure lì, in mezzo a quella nudità reale, non apparente, c'è un Cristo che a me dice: qui io nasco. Per cui sono privilegiato a poter vivere il Natale da questa postazione, perché anche il mondo potrà finalmente toccare con mano che cosa significa che la buona notizia arriva per chi nella vita ha perso, arriva per dare una chance anche a noi. Alberto, da quanto ci racconta Don Marco, mi sembra che la parola chiave che oggi vorremmo mettere al centro della nostra puntata è essenziale, perché ci può aiutare oggi, no? Nel tuo libro, tra l'altro, Mentre la tempesta colpiva forte, pubblicato in questi mesi, dedicate alla rielaborazione di ciò che ci è successo, tu hai parlato dell'essenziale in questo modo. Lo ascoltiamo e poi lo condividiamo con te e Don Marco. Un bisogno di cui credevamo di non dover più aver bisogno e che pandemia, i lockdown e tutte le sfide ad essi connesse hanno fatto risalire in superficie è quel bisogno di trascendente e di infinito. Quella tensione spirituale e religiosa che è sempre appartenuta all'essere umano, ma che negli ultimi decenni ha vissuto una crisi senza uguali, profondamente radicata anche nella crescita di quel vuoto interiore, da molti vissuto e sperimentato e spesso anestetizzato proprio negli abissi dell'iperconnessione. Spiritualità, interiorità, religiosità, parole che richiamano al dentro dell'essere umano, ma non un dentro claustrofobico e opprimente, bensì un dentro liberante, in grado di dare significato e di aprire a nuovi orizzonti di senso. Alberto, una frase molto profonda, forse anche un po' complessa, ma che oggi ci può essere di grande aiuto. In fin dei conti, il Natale è proprio una festa che ha dentro di sé tutto questo. Ah, è proprio una festa che troppe volte prepariamo e celebriamo nel fuori. Ecco, quest'anno effettivamente lo spazio della casa, ma anche il nostro spazio interiore, è uno spazio enormemente sollecitato dai tanti limiti che l'emergenza ha messo nelle nostre vite. Devo dire però che questo spazio di interiorità spesso si è rivelato poi una grande risorsa, è come se alcune persone, no, avessero davvero sentito profondamente riaprire una porta dentro di sé. Per qualcuno potrebbe sembrare questo solo un messaggio retorico, ma altri hanno davvero sentito che questa cosa toccava le loro vite. Credo che sia una buona immagine anche per l'uomo moderno, no, che spesso ha costruito un senso di onnipotenza irreale. Dentro all'impotenza di questo senso, scoprirsi piccolo e finito e quindi avere un bisogno che da sempre appartiene all'uomo, che è quello della trascendenza e della ricerca dell'infinito. Don Pozza, lei che ne pensa? Secondo lei, in questo lungo di tempo di emergenza, le persone sono ritornate a cercare una dimensione spirituale, a guardarsi dentro? Non lo so se ci sono ritornate, so che, come dice Papa Francesco, da una pandemia del genere non si esce uguali o si esce diversi, no, non si capisce se nel bene o se nel male. A me in questa lunga attraversata del deserto mi è capitato tantissime volte assieme con Papa Francesco, preparando il 27 marzo, preparando quella storica Via Crucis, a riflettere sul concetto del vuoto. Perché se nel Vangelo c'è scritto che non c'era posto per Cristo nell'albergo, significa che era tutto pieno, secondo le logiche degli uomini. Cristo in questa pandemia ci ha fatto fare esperienza del vuoto, quasi a volerci dire: se non c'è del vuoto, okay, non riesco a nascere. È un po' come quando uno ha la pancia piena, se non c'è un po' di spazio dentro, è difficilissimo che ci possa entrare anche il cibo più squisito. Sicuramente le persone che vivono con me l'esperienza del carcere, in questa lunga attraversata che non è ancora finita purtroppo, si sono guardate dentro, forse ancora di più, no, di quello che si guardavano dentro prima, perché per la prima volta nella storia si sono trovati in una situazione quasi uguale alle persone fuori: il senso di limitazione, il senso della privazione della libertà, certo, il senso dell'isolamento, sono concetti che ci appartengono. E penso che almeno a me, come uomo, non dico come prete, ma come uomo, l'esperienza del carcere mi è stata di aiuto a non scappare di fronte alla mia storia, di fronte al mio viso, ma a fare i conti con quei pieni che certe volte mi rubano la possibilità di avere un vuoto e dunque di essere anche capace di ospitare una presenza, un arrivo o anche una prospettiva diversa come quella trascendente nel leggere la mia vita. Alberto, fare spazio, fare vuoto, anche nel tuo libro aiuti con le meditazioni che suggerisci, 50, in chiusura di questa nostra chiacchierata io chiedo a te e a Don Marco di farci gli auguri per questo giorno speciale, ma di farci degli auguri che noi possiamo portare nel cuore e che tengano il nostro cuore caldo e uno spazio vuoto nel nostro cuore per fare spazio per tutto l'anno. Alberto, iniziamo da te. Ma a me è piaciuta tantissimo la riflessione di Don Pozza. Credo davvero che nello sperimentare una mancanza non ci sia solo la dimensione della perdita, ma profondamente anche la dimensione del desiderio, che è un grandissimo motore generativo per la nostra vita. E desiderare mi sembra proprio il verbo perfetto per un Natale, dove perdere alcune cose può però farcene sentire il valore essenziale per la nostra vita, e quindi sappiamo che le potremo riavere e quindi non smettiamo di desiderarle. Don Marco, gli auguri di Don Marco, ci faccia gli auguri. Sì, è molto semplice, che sia, ma per davvero, il Natale più triste che abbiamo mai vissuto finora, perché ci riporterà il più vicino possibile a quella che è stata la tristezza del primo Natale della storia. Quel giorno Cristo è nato di fronte all'indifferenza di tutti, di fronte alle porte chiuse, di fronte ad un mondo che diceva di aspettarlo, ma quando è arrivato non si sono accorti. Mi piace pensare che quest'anno forse riusciamo ad avvicinarci il più possibile a quello che è accaduto nell'anno zero, ma soprattutto ricordarci questo, che per quanto l'uomo continua ad interrompere la strada, il massimo che riuscirà a fare è costringere Dio ad andare a zig zag in mezzo alla strada, ma Dio non si fermerà di fronte all'interruzione della storia. Ecco, che sia il Natale più triste che esista, perché sarà il Natale più vero al Natale di Betlemme. È più luminoso. Certamente. Don Marco, grazie. Alberto, nostro amico di sempre e amico speciale di ogni Natale, buon Natale. Buon Natale a te e buon Natale a tutti gli ascoltatori. Buon Natale naturalmente a Laura Vanossi, che è in assistenza in redazione. Buon Natale ad Andrea Roccabella, che è in regia alla parte tecnica. Noi ci fermiamo, facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, e poi ritorniamo subito dopo insieme. Andiamo a riascoltare una serie di riflessioni che abbiamo condiviso con voi nello spazio che abbiamo inaugurato dopo il GR delle 12, sostituendo gli appuntamenti delle ricerche, proprio con una serie di stimoli, suggestioni, riflessioni che ci aiutano in questi giorni in cui molti di noi magari si sentono soli o vogliono condividere invece la felicità di stare in famiglia in modo davvero più vero. Insomma, noi siamo qui e anche questo è un modo per sentirci vicini, anche se siamo lontani, ma noi staremo sempre vicini. A tra poco. Obiettivo salute. Questa è una canzone che universalmente viene riconosciuta per la carica, l'intensità, la voglia di rivincita, che è tutto quello che ci serve per vivere il presente e guardare il futuro, il domani. Oggi abbiamo in linea con noi Filippo Ongaro, ex medico degli astronauti, coach e scrittore. Filippo, benvenuto, grazie. Grazie Nicoletta, buongiorno a tutti. Tra l'altro, Filippo, qua aggiungo una nota di colore, tu hai conosciuto personalmente Rocky, Sylvester Stallone. Esatto, ho avuto il piacere di conoscerlo e devo dire che Rocky è un bel personaggio, penso amato da tutti, perché è un po' l'eroe che non si ferma nonostante prenda tante botte in effetti, e credo che sia una bella metafora anche per oggi, che forse molti di noi si sentono un po' presi a pugni dalla situazione complessiva in cui viviamo, ed è l'incitazione a non mollare, a non fermarsi, a ricordarsi che alla fine ci si può risollevare, ci si deve risollevare, e bisogna ritrovare soprattutto, prima di tutto, secondo me, fiducia in se stessi, nei propri mezzi, credere che la vita a volte non ti tratta benissimo, ma insomma è l'unica cosa che abbiamo e dobbiamo comunque imparare a viverla al meglio. Ecco. Dentro ciascuno di noi sonnecchia un Rocky. Come possiamo risvegliarlo, Filippo? Ma io credo che la cosa principale sia quella di avere la forza di rialzarsi ogni volta che qualche episodio, per usare la metafora del pugile, ti butta al tappeto, avere questo desiderio, questa forza, questo senso di scopo, bisogna andare al di là dell'episodio contestuale e continuare a credere che valga la pena rialzarsi ancora una volta. Per quanto, Nicoletta, sia chiaro che in determinate situazioni sia difficile trovare questa capacità, questa resilienza, si parla molto di resilienza in questi giorni, proprio perché è però una delle caratteristiche fondanti che un essere umano deve tirare fuori per poter vivere una vita che sia bella nonostante le circostanze esterne, perché noi tante volte abbiamo, come dire, facciamo troppa attenzione alla circostanza esterna come a ciò che deve per forza definire la qualità della nostra vita, ma in realtà anche la ricerca suggerisce che la qualità della vita è più determinata dalle risorse interne e dalle risposte psicoemotive a ciò che accade, non dagli episodi oggettivi. Quindi, per quanto difficile sia, pensiamo un po' a Rocky e troviamo quella forza per rialzarci ancora una volta. Filippo, come possiamo allenarci? Ma sai, allenarsi ci pensa, per certi aspetti ci pensa la vita stessa, cioè ogni volta che accade un episodio che non ci piace, un episodio che un po' ci sciocca, noi dovremmo trovare quel distacco e quella calma per provare a capire che lezione ci sta insegnando questa cosa, invece di lasciarci prendere dalla lamentela, dallo sconforto, dal vittimismo, accettarla, dire ok, questa è la situazione che ho davanti, che cosa posso apprendere e come posso rafforzarmi tramite questa esperienza. Quindi nel caso del pugile o di altri atleti, diciamo, l'allenamento è qualcosa di confezionato a tavolino, nel caso della maggior parte di noi è la vita stessa che ti offre gli episodi per allenarti, se hai, diciamo, quella capacità di riflettere obiettivamente sulle cose, di non cadere così nella frustrazione, nella rabbia, nel puro fastidio. Quando invece col dito indicare la luna vuole dire non averne nessuna. Abbiamo scelto questa bellissima canzone di Angelo Branduardi, Il dito e la luna, per la riflessione di oggi, che ci invita ad alzare lo sguardo. In linea con noi la dottoressa Maria Giovanna Luini, medico, scrittrice, psicoterapeuta, psicosomatica. Bentornata. Grazie, buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Beh, questa riflessione è proprio quasi chiamata. Perfetta, alziamo lo sguardo. Alziamo lo sguardo. Dai, non posso credere che siamo così legati allo sguardo sul dito da non vedere la luna. Questo senza banalizzare nulla, però quando noi ci concentriamo su ciò che nell'oggi, in questo momento, non riusciamo a fare o non possiamo fare, perché ci sono dei motivi forti, perché dobbiamo proteggerci, perché dobbiamo aiutare chi è più fragile di noi, concentrandoci lì stiamo commettendo un errore. Perché? Perché basta alzare lo sguardo, basta guardare più in là, basta vedere che la luna è sempre lì. E la luna è il nostro domani, è il domani dei figli, è il domani di chi amiamo. Un domani che dipende tantissimo da come noi guardiamo il dito. Ho molta fiducia in tutto ciò che noi siamo e quindi guardare il dito è guardare l'oggi, guardare il dettaglio, guardare le cose che ci danno fastidio perché siamo obbligati a fare o non fare. Beh, riguardano tutti. E allora se tutti alziamo lo sguardo e guardiamo la luna, capiamo che domani potremo fare molto di più e molto meglio. Alzare gli occhi è un esercizio vero e proprio, è una sorta di allenamento quotidiano. Sì, alla portata di tutti, sì. Semplice e molto efficace, però bisogna iniziare. Sì, perché gli occhi fisici ci danno una mano. Allora, ci mettiamo in piedi dove vogliamo, sentendo molto bene la terra, il pavimento sotto i piedi. Dobbiamo dedicare qualche istante alla percezione della terra sotto i piedi, del pavimento. Il radicamento. Radicamento, esatto. A quel punto teniamo lo sguardo in basso, sul pavimento, sulla terra, lì dove siamo, e iniziamo a inspirare, quindi buttare dentro l'aria lentamente mentre alziamo lo sguardo. Non dobbiamo pensare nulla, non dobbiamo visualizzare nulla, solo tenere lo sguardo su ciò che appare davanti. Quindi sguardo a terra, inspiro, inizio a tirar su gli occhi, poi pausa, butto fuori l'aria, espirazione, e vado ancora più su, inspirazione, vado su, vado su, vado su. Il trucco è continuare a salire mentre inspiro, cioè mentre nei polmoni metto l'aria pulita, diciamo. Poi mi fermo, butto fuori l'aria con tutti i residui, espirando, finché arrivo a un livello che è un po' più su rispetto alla linea dell'orizzonte, un pochino in alto, diciamo. Vedrete che la sensazione interiore, mentre gli occhi si muovono e mentre i polmoni prendono aria pulita, è di un'ampia liberazione. Più lo sguardo va su, più il corpo fisico si sente nutrito e libero, perché il senso di questa riflessione, che è psicofisica, è di avvertire l'enorme liberazione dell'alzare lo sguardo, ripeto, un po' più su rispetto all'orizzonte, un po' in alto, e restare lì a guardare in alto. È veramente una prospettiva diversa e il corpo la sente. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare, e guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Una splendida canzone che ci porta a parlare di cura. Leo Buscaglia ha scritto: troppo spesso si sottovaluta la potenza di un tocco, un sorriso, una parola gentile, un orecchio in ascolto, un complimento sincero o il più piccolo atto di cura che hanno il potenziale per trasformare una vita. Questo è un periodo molto particolare in cui abbiamo imparato che bisogna prendersi cura di se stessi e degli altri in maniera più autentica, perché questo può davvero fare la differenza per molte persone in termini di salute e anche di equilibrio psicofisico. È tornata a trovarci Daniel Lumera, buongiorno, grazie. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Scrittore, grande esperto delle scienze del benessere. Parliamo di cura, ma che cos'è davvero la cura? In che cosa consiste prendersi cura di se stesse e dell'altro? E come soprattutto possiamo farlo bene, farlo al meglio? Ma la cura è un alimento. Io penso, quando sento la parola cura, penso ai bambini. E penso al fatto che i bambini, l'importanza della cura nei bambini, soprattutto i primi mesi di vita. Il bambino non è affamato semplicemente di latte, ma anche proprio di cure dei genitori, che sono fatte di contatto, sono fatte di amore incondizionato. C'è un legame profondissimo tra cibo, carezze, massaggi, abbracci, tenerezza, voce della madre, del padre o dei parenti, che sono pieni di premura per il piccolo. E allora questo tipo di cura noi sappiamo che ha un impatto enorme sullo sviluppo psichico e fisico dei bambini. Cioè i bambini correttamente alimentati di cibo fisico, intendo, però senza del tutto le interazioni, il contatto, possono anche morire, cioè presentano un quadro clinico estremamente compromesso. C'è un esperimento interessante su circa un centinaio di bambini, e il 37% di questi bambini, anche se sono stati alimentati correttamente, sono morti perché non hanno ricevuto delle cure, hanno presentato insomma delle degenerazioni importanti. Perché sto facendo questo esempio così importante? Perché prendersi cura dell'altro, ma di tutto quello che facciamo, ci sono tante parole che mi vengono in mente, se penso alla parola cura, ad esempio attenzione, ascolto, accoglienza, no? Carezze, gentilezza. Se penso a un alimento cucinato con cura, a quanto è più buono, c'è quel fattore invisibile che lo rende magico. Quindi non è tanto ciò che accade nella nostra vita, ma proprio come noi abitiamo ciò che accade, la nostra presenza in ciò che accade che fa la differenza. Cioè ma oggi, in questo momento particolare, come possiamo portare cura nella nostra vita? Ma iniziamo da noi stessi. Per esempio, uno degli esercizi più semplici, che ha una risposta biologica, fisiologica immediata, è quello durante il giorno di fermarsi un momento e appoggiare la mano nel proprio cuore, come se fosse la mano, ad esempio, di una madre o di un padre, quindi una mano che è presente, che cura. E bastano tre respiri focalizzandosi sul proprio cuore, per dare una risposta fisiologica, biologica, chimica al cuore. Il primo respiro si dice: io ti ascolto, cioè io ci sono. Il secondo respiro: io ti riconosco, parlando al proprio cuore. Il terzo è semplicemente grazie. 3 respiri per prendersi cura di se stessi. Iniziamo da qua. Grazie per oggi è tutto. Un saluto da Nicoletta.